Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. Da un estremo all'altro, dopo aver goduto per alcuni anni di incentivi astronomici, ogni tipo di privilegio, oltre che del supporto incondizionato dell'opinione pubblica, il fotovoltaico sembra oggi sottoposto a una specie di assedio. Con la fine degli incentivi, il settore ha subito un drastico ridimensionamento, a mio avviso anche un po' inevitabile. Sta di fatto che però a questa situazione negli ultimi mesi si è aggiunto uno stillicidio di piccoli provvedimenti, alcuni anche solo annunciati, che però fanno molta paura al settore. Ce li spiega Valerio Natalizia, che è presidente del GIFI, ma che davvero credo in questa circostanza possa parlare anche a nome delle altre associazioni di settore del mondo fotovoltaico, perché su questo sono unite. Intanto buonasera Natalizia. Buonasera. Allora, devo confermare che in privato molti operatori del settore energetico, anche quelli che sono stati fortemente critici rispetto, diciamo, agli eccessi del passato, oggi parlano di una specie di accerchiamento, cioè di una volontà di fermare la crescita di questo settore. Questa è una cosa che io registro, di cui prendo atto, e allora le chiedo, Natalizia, di farci capire quali sono questi provvedimenti che considerate così preoccupanti. Allora, innanzitutto io partirei da quelli che sono stati dei provvedimenti già realizzati. Sono veramente tanti, ma ne vorrei ricordare solo magari un paio. C'è stato un provvedimento sui prezzi minimi garantiti, cioè gli impianti fotovoltaici o rinnovabili in generale in regime di ritiro dedicato avevano il riconoscimento da parte del GSE di un valore di 80,6 euro a megawattora. Parlo chiaramente degli impianti che producevano fino a 1,5 milioni di kilowattora. Questa quantità è stata ridotta a 38,9, quindi più che dimezzata. Ci sono stati altri provvedimenti tipo dal punto di vista fiscale, che sono andati attraverso la circolare dell'Agenzia delle Entrate a dicembre del 2013 a soggettare gli impianti fotovoltaici a terra, appunto, alla beni immobili, sì, alla vecchia ICI, insomma. Sì, con la revisione anche del quelli che sono i relativi coefficienti di ammortamento, e quindi chiaramente si passa da il 9% per quelli che sono appunto considerati beni immobili al 4% dei beni immobili. E poi ci sono stati appunto tutta una serie di altri interventi, ripeto, alcuni annunciati, alcuni attraverso documenti che sono in consultazione, che ci fanno un po' paura, nel senso, come giustamente annunciava lei all'inizio, ci fanno vedere una volontà punitiva nei confronti di questo settore, perché probabilmente spaventa qualcuno, nel senso che adesso con una riduzione dei costi che negli ultimi 5 anni ha superato il 70%, è molto più facile installare un impianto fotovoltaico e non c'è più bisogno di incentivi elevati. Quindi oggi in regime di detrazione fiscale è molto semplice installare un impianto, molto semplice e anche conveniente. E allora, per esempio, si parla di una possibile introduzione di oneri, o meglio di caricare l'energia autoconsumata degli oneri generali di sistema e degli oneri di rete. Cioè degli oneri che paghiamo per utilizzare la rete per trasmettere l'energia. Se uno la produce sul tetto, lei dice, la consuma al piano di sotto, non utilizza la rete, quindi perché dovrebbe pagare gli oneri di rete? È questo, sì, no, il punto? Ci possono anche essere discussioni sul fatto che la rete è disponibile e quindi ha comunque un costo, però a noi sembra assurdo che si vada a disincentivare proprio l'autoconsumo. L'autoconsumo che però, per esempio, voi siete anche preoccupati per un altro possibile provvedimento che invece lo disincentiva l'autoconsumo, che è quello dello scambio sul posto. Sì, lo scambio sul posto, ultimamente c'è stato un emendamento che ha tentato di portare da 200 kW, che è il limite attuale, a 20 kW lo scambio sul posto. In pratica lo scambio sul posto è un meccanismo per utilizzare appunto la rete come se fosse, diciamo, un serbatoio, no? Cioè uno produce energia ma non la consuma in quel momento, la butta in rete, sì, e la può prelevare in un secondo momento, non è costretto ad autoconsumarla subito per risparmiare. Diciamo che c'è stato già un adeguamento di questo meccanismo, e quindi non è proprio, diciamo, la stessa cosa autoconsumare istantaneamente o in un secondo momento, okay, nel senso c'è sempre comunque una convenienza nell'autoconsumo, okay, istantanea. Però quello che a noi sembra veramente assurdo è che questi meccanismi possono anche essere messi in discussione, ma devono essere messi in discussione sulla base di un progetto futuro, di un progetto di sviluppo delle fonti rinnovabili. Oggi assistiamo invece a uno stillicidio di provvedimenti reali o annunciati che creano incertezza nel mercato e che quindi tendono a bloccarlo. Grazie allora Valerio Natalizia. Grazie a lei. Va bene, ci fermiamo qui, appuntamento a domani.